Appello. Ademo Elisabetta. Presente. Bozzini Emanuela. Presente. Calderon Clelia e Leo. Presente. De Angelis Marco. Presente. Obbligo di frequenza. Di Maria Piera Ceci. Gli insegnanti migliori otterranno una mensilità in più di stipendio. L'altro progetto invece valuta il lavoro d'équipe, il lavoro svolto dagli insegnanti nel loro complesso e quindi prevede un premio per la scuola fino a 70.000 euro. L'avete sentita, ne abbiamo parlato anche molto nei GR in questi giorni, la novità veramente importante per il mondo della scuola. Siamo ad una sperimentazione quindi molto limitata nei numeri, però tant'è che dopo averlo detto per anni, alla fine il ministro della pubblica istruzione Gelmini ha deciso di dare il via a due progetti che premieranno i prof migliori, la sperimentazione si svolgerà a Torino e Napoli, e le scuole migliori, a Pisa e Siracusa. Si tratta dunque di soldi, finalmente un po' di soldi che arrivano alla scuola, in particolare alla scuola migliore intesa in senso lato. I soldi che vengono recuperati dai feroci tagli fatti proprio sulla scuola in questi anni, e ne sappiamo davvero qualcosa. L'associazione 3L farà da consulente al Ministero per quanto riguarda la valutazione dei docenti, il presidente Attilio Oliva. Io la considero veramente, lo considero veramente un evento di epocale, forse troppo, ma di straordinaria importanza per il mondo della scuola e per l'Italia, per due ragioni fondamentali. Primo, che c'è una popolazione di quasi 1 milione di insegnanti che da tempo reclama carriere, meriti, riconoscimenti, prestigio che purtroppo si è perso nel tempo, non per colpa loro, ma per una scarsa considerazione del personale che occupa, che fa scuola. In tutti i settori, di ogni settore di attività, esiste una premialità in forme diverse, ma questa è la condizione minima per spingere tutti a migliorare e per premiare chi fa più di altri. E tutti sappiamo che in ogni scuola fanno tutti lo stesso lavoro, ma c'è chi lo fa meglio e chi lo fa meno bene. I criteri da individuare per giudicare, perché insomma giudicare non è mai facilissimo, sia gli insegnanti sia le scuole, dovranno essere insomma individuati con molta precisione, ecco. Assolutamente sì, il problema è molto delicato e su questo tema si è già a suo tempo ha perso il posto di ministro, il ministro Berlinguer anni fa, quando per primo propose il concorsone di riconoscere i meriti nella scuola, e adesso va a merito del ministro Gelmini avere ripreso l'argomento e portarlo avanti con tanta fermezza. Devo dire che è molto importante che il sindacato in generale, con dei distinguo tra uno e l'altro, ma non ostacoli il processo, probabilmente perché si rende conto che nell'interesse stesso dei suoi iscritti e dei insegnanti c'è bisogno di inserire anche in questo settore tutto quello che vale negli altri settori. E anche questa è una svolta abbastanza epocale per quanto riguarda il mondo della scuola. Naturalmente è molto importante che, come lei mi chiedeva, il processo, direi che il caso fondamentale è che è stato scelto il metodo della sperimentazione, non di una nuova legge che decide di aumentare lo stipendio a questi o a quelli, che era molto complesso e arduo. Siccome il tema è delicatissimo e si può prestare a un eccesso di discrezionalità, a preferenze, a favoritismi, eccetera, bisogna, e questo è stato fatto, studiare dei sistemi che garantiscano il massimo di trasparenza, di oggettività e di consenso nello stesso mondo degli insegnanti. La sperimentazione è la chiave di volta. Si sperimenta in piccolo, si vedono i più e meno, si corregge il modello e poi, solo poi, il momento politico potrà prendere delle decisioni su basi testate, condivise dallo stesso mondo della scuola e verificate nei più e nei meno. Non sarà facile, ma è possibile. È assolutamente possibile, in tutti i paesi del mondo si stanno facendo, o ci sono già norme che hanno regolato il sistema, o si stanno facendo prove, tentativi di tutti i generi, perché tutti hanno il problema di come valutare il sistema scolastico, come valutare le scuole, come valutare gli insegnanti. È un problema mondiale. L'Italia arriva probabilmente con grande ritardo a questo problema, ma se poi riuscisse a fare bene attraverso questa sperimentazione, sarebbe un grande successo. Cambiamo decisamente argomento per parlare di uno di quei tanti paradossi italiani. Lo abbiamo detto molte volte, ma lo ridiciamo. Alle aziende italiane mancano all'appello quasi 110.000 diplomati, tecnici, periti e quant'altro. Non c'è proprio verso di trovarli. Allora, da qualche tempo, 15 associazioni industriali delle province con maggiore vocazione meccanica e manufatturiera, diventate poi 17 in realtà, si sono messe insieme nel Club dei 15 e ciascuna ha adottato un istituto tecnico della zona per lavorare insieme e spingere i ragazzi a non considerare il liceo come unica scelta di istruzione. Ci racconta tutto Alberto Ribolla, coordinatore del Club dei 15, che proprio in questi giorni si sono riuniti a Modena per fare il punto. Generalmente ci sta una fatica veramente importante nel trovare in particolare le figure intermedie, al di là dell'operatore specializzato, che è comunque un grosso problema, ma anche le figure intermedie, quindi capi reparti, capi squadra, e i ragazzi degli anni 70, come li ho definiti io, che stanno sostanzialmente andando in pensione, facciamo grande fatica nel rimpiazzarli. C'è un'altra larga fetta di studenti che va attratta, quella degli immigrati. Ma io sono varesotto, quindi ricordo quando negli anni 60 sia dall'est che dal sud c'erano frotte di famiglie che venivano perché avevamo le fabbriche. Quindi è stata questa grande integrazione, le famiglie più povere tendenzialmente facevano fare i figli una scelta per questioni di ordine economico di breve periodo, quindi più legata alla formazione tecnica, che non potevano permettersi di mandare i ragazzi all'università, e sostanzialmente oggi sta succedendo lo stesso, quindi gli immigrati che occupano una fascia sociale a più bassa capacità di spesa tendono ad avere un ciclo di studi, comunque un ciclo di studi, ma un ciclo di studi breve per i loro ragazzi. Questo ovviamente va molto bene alle imprese, anche perché sfatiamo un mito: non è vero che facendo l'istituto tecnico uno poi non possa fare l'università. E altro mito: servono gli ingegneri così come servono i periti, poi serve chi sa e serve chi sa fare. Contente dunque le imprese, soddisfatte anche le scuole che collaborano al progetto del Club dei 15. Franco Rigola è il preside dell'Istituto Tecnico Quintino Sella di Biella. Certamente c'è una grande esperienza che si è consolidata negli anni di stage estivi e di stage anche in corso d'anno. In particolare si svolgono poi anche stage per gli alunni in esito dai percorsi quinquennali di istituto tecnico, che di solito hanno una durata di 6 mesi e si pongono come obiettivo la preparazione e l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Quindi insomma i vostri ragazzi vanno a fare degli stage d'estate, ma non solo, e insomma qualcuno ci resta anche poi in queste aziende nella vostra esperienza? Certamente. I ragazzi biellesi rispondono a questa fame di tecnici delle aziende locali? Lei deve tener conto che in particolare il settore tessile è stato caratterizzato da una crisi estremamente significativa in questi ultimi anni. Solo da pochi mesi è di fatto avviata una ripresa, e già in questi ultimi mesi noi abbiamo riscontrato una ripresa delle iscrizioni al settore tecnico, in particolare ai percorsi tessili moda. Quindi le iscrizioni vanno un po' di pari passo con l'andamento della crisi? Certamente. Aziende che hanno bisogno di personale specializzato, scuole che hanno alunni e alunne pronti per esperienze di lavoro. Roberto Peverelli è il preside dell'Istituto Tecnico Badoni di Lecco. Noi a Lecco ci siamo occupati soprattutto della questione della comunicazione, della capacità degli istituti tecnici industriali di far arrivare anche le ragazze all'interno degli istituti. Noi lavoriamo in istituti che sono in larga prevalenza istituti sostanzialmente maschili, e questo è sembrato a tutti, è emerso da subito dai primi incontri come un problema. Non è semplice perché bisogna riuscire a intanto imparare a comunicare meglio da parte delle scuole, da parte delle associazioni di impresa, da parte poi delle scuole medie quando queste fanno orientamento al loro interno. Questo naturalmente in realtà deriva da pregiudizi su cosa si fa in queste scuole e anche su quella che è la prospettiva professionale che poi in realtà si viene aprendo dopo aver frequentato queste scuole. Perché quali possono essere gli sbocchi per una ragazza che frequenta l'ITIS? sono quelli che sono presenti anche per i ragazzi, nel senso che un tecnico industriale diplomato, per fare un esempio, in meccanica, dove sta scritto che debba essere un maschio, insomma. Non è detto che deve essere un maschio. Come? Mani sporche d'olio, ecco, pesi da sollevare, insomma. Non è esatto, non è così, o perlomeno certo è ancora così magari in alcune situazioni, ma non è la norma, non è l'unico esito possibile, ed è un peccato che le ragazze vadano a iscriversi massicciamente in altri tipi di istituti, per esempio i licei pedagogici, o rischiano in questo modo in realtà di andare a terminare in settori dove è più difficile oggi a volte trovare sbocchi professionali. È tutto, ci risentiamo sabato prossimo, come sempre alle 12:45.